Innamorati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Amsic la sposta bene verso Mertens, cambio di lato interessante a cercare Higuaín e coglie con Higuaín! Higuaín! Il pipita! Si scatena il pipita! Contropiede perfetto del Napoli al minuto 15. Elegante Maggio, numero su Schürrle, palla perfetta per Higuaín che trova Amsic! Amsic! Amsic! 2-0! L'azione perfetta di nuovo, minuto 23, tutto nasce da Maggio, poi ci pensa il doppio H, Higuaín con l'assist, Amsic col 2-0, Napoli 2-0. Chi sbaglia tutto, arriva Kayekon, c'era già Amsic, Kayekon, Amsic, 3-0, sono tre, tre volte Napoli, due volte Amsic, delirio a Wolfsburg, piuttosto azzurro. Il velo di Higuaín per Insigne, che può provare ad attaccare, dentro c'è anche Gabbiadini, palla per lui! Gabbiadini! E sono 4! Ed è una festa enorme! Ed è un poker pazzesco nel cielo di Wolfsburg! Ed è un Napoli perfetto! Ci può stare. Adesso l'unica cosa da capire è se Pierluigi Pardo ha ancora la voce. Poca. No, sicuramente, quello è il microfono. Però bello, sono proprio divertito, sono molto contento, è stata veramente una notte bellissima, proprio della quale ovviamente devo essere contento di potere il Napoli, ma io vorrei che un po' della fierezza dell'essere andati un'altra volta in Germania, venti giorni dopo. A dare un'altra lezione al calcio tedesco ci deve rendere tutti orgogliosi, perché io mi ricordo gli anni d'oro del grande calcio italiano degli anni 90, in cui andavamo a dare lezioni in giro, non siamo a quei livelli lì, fatta una volta, però insomma mi sembra che il partito dei pessimisti sì. Si stia restringendo, no? Speriamo. 8-0-0-24-0-0-24, ma vedrai che ce ne saranno ancora molti in giro, anche se, ciao Giovanni Capuano, ciao. Ovviamente Daniele Buonamici, Alessandro Marco Turni in redazione, Filippo Reggi in regia, anche se insomma il calcio tedesco qualche cosa, almeno un'influenza ce la deve avere, eh. Il Bayern ha preso 3 sì, hanno preso 7 gol in 2 giorni, pronti via. Tra l'altro in 2 partite in cui entravano ufficialmente da favoriti, sicuramente il Bayern Monaco, in parte anche il Wolfsburg, anche se io non voglio smorzare gli entusiasmi degli amici napoletani, ma a me ieri è sembrato il Wolfsburg di un mese fa contro l'Inter. La differenza è che davanti aveva una squadra che ha picchiato dentro tutti i palloni che poteva mettere nella prima mezz'ora e lì ha messo in discesa la partita, e poi, a parte che non è servito, diciamo, ha giocato anche col portiere, a differenza di quanto era accaduto all'Inter un mese fa. Sì, però insomma è la seconda, adesso voglio dire, quando la Juve ha vinto col Dortmund ci hanno detto che però è la decima del campionato tedesco, adesso è la seconda del campionato tedesco, che giocava contro la quarta del campionato italiano, e non c'è stata partita. Poi si può discutere sul fatto, praticamente secondo me l'unico scrupolo, l'unico punto interrogativo che ho è che il Napoli si è trovato per suo merito avanti presto e quindi ha avuto la possibilità di impostare la partita migliore, la partita perfetta. Il Napoli questa caratteristica ce l'ha, era successo anche contro la Fiorentina, dopo 23 minuti il Napoli stesso quando va in vantaggio poi riesce ad avere la piede perfetta, quindi questo può essere l'unico scrupolo, e magari con squadre che si chiudono di più ci può essere qualche problema in più. Però la condizione fisica, la motivazione, le prove dei singoli, anzi che erano anni, come si dice, cioè, erano anni, Marrakesh Espresso. Erano anni che non mi divertivo così, c'era Diego Badantuono, roba, cioè, credo fosse lui. Comunque sicuramente fin dalla Marrakesh Express, quando stanno lì e mangiano le roba, sì, molto speciale. Erano mesi, diciamo, dai, che non si vedeva un Amsic a questi livelli. Higuaín è un uomo squadra strepitoso. Addirittura il Napoli ha preso il gol del 4-1 perché aveva voglia di fare il quinto, ha preso un gol anche abbastanza ridicolo in contropiede che sicuramente ha fatto arrabbiare Benitez. No, mi sembra sia stata veramente una bellissima pagina, e ci aggiungiamo anche la Fiorentina, certo, che si è zitta, è uscita con un risultato prezioso e adesso 1-1 da Kiev, adesso se la gioca, certo, adesso se la gioca al ritorno, ma io non vedo l'ora nemmeno anche che sia mercoledì, perché abbiamo un bel tesoretto, no? Noi possiamo portare avanti bene tutte e tre, diciamo la verità. La mia vita personale da telecronista, però sì, sicuramente mercoledì abbiamo un altro grande appuntamento, e soprattutto abbiamo la sensazione che le cose le stiamo ricominciando a far bene. Ma io ti dico che sull'Europa League secondo me molto era anche la sottovalutazione di questa Coppa. Poi è stato un anno particolare, io non mi aspetto che l'Europa League possa essere così tutti gli anni, dipende anche da chi si qualifica. Ma perché Pier, secondo te noi non possiamo portare due squadre nei quarti in Europa League? Cioè il nostro calcio non vale tanto? Poi adesso vediamo come va avanti, ma se anche domani mattina si fermassero tutte e due, comunque sarebbe una stagione fatta bene, con due squadre che vanno avanti e le altre che non snobbano l'Europa League. La chiave è tutta lì. Se vuoi ti do l'aggiornamento dei punti, 0833 sono quelli che abbiamo recuperato all'Inghilterra, e siamo a un punto da un sorpasso virtuale che ci metterebbe in condizioni per un paio di stagioni di giocare col vento in poppa. Fra due anni. Ma non sottovalutate un sorpasso che, ripeto, virtuale, che scatterebbe, perché poi significa davvero avere la consapevolezza dei propri mezzi, e secondo me anche crederci un po' di più, tutti quelli che ci vanno, che insomma, il traguardo non è lontano, noi sembrava un anno fa, noi sembrava impossibile pensare al terzo posto anche in proiezione a 3-4 anni, e adesso ce l'abbiamo lì a un paio di stagioni. Sì, ma la ragione è questa, che le nostre squadre hanno affrontato finalmente in maniera seria una competizione che deve essere affrontata in maniera seria come l'Europa League. Gli altri anni ci andavano con le formazioni da Coppa Italia. Ci fermiamo per traffico, torniamo subito dopo. Ci può stare. Tutti convocati. Se continuate così, però, non vi fanno più cancellare il ritiro. Anche quello è vero, però, come ho detto, non è ancora finita, si giocano altri 90 minuti, però abbiamo fatto un grandissimo passo per farcelo. Questo era Marek Hamšík sulla storia del ritiro. Io ripeto, mi ha fatto molto ridere, ho visto un post pochi minuti fa, una foto dei cancelli di Soccavo, e davanti una scritta: non ne facite a sci, ritiro a vita. Non so se l'ho pronunciato bene, lo chiedo a Pino Taglialatera. Ciao Pino. Pino, buongiorno. Non c'è, lo recuperiamo. Pardo, te ne intendi, l'ho detto giusto. Soccavo, che è sempre un turno, però no, vabbè, insomma, guarda, sto leggendo il libro bellissimo di Maurizio De Giovanni sul resto della settimana, a proposito del famoso striscione del 10 maggio dell'87, quando il Napoli vinse il primo scudetto, il famoso striscione sul muro del cimitero che dice "le persi", e poi un'altra mano anonima che gli rispose "e chi ve l'ha detto", no? E quindi insomma, da questo punto di vista diciamo che la capacità ironica dei napoletani è sempre top. Sì. È la battuta più semplice del mondo non ne facita sci, ritira vita, no. Bellissima. Pino, ci sei? Ci sono, vi sentivo prima. Ah, ci sentivo, l'ho pronunciato giusto. Non ne facita sci. Teniamoli là. Non ne facita sci. Sei d'accordo? Ma guarda, io lo dicevo anche a dei vostri colleghi in settimana, ma quando ci sono degli impegni importanti, un po' di ritiro non fa mai male, anche perché sei professionista e ogni tanto fa anche bene ritrovarsi tutti insieme, soprattutto quando le cose non vanno troppo bene, come è successo ultimamente al Napoli. Bastava solo ritrovarsi un attimino, e è stata brava la società a capirlo e a fare questo ritiro, secondo me. Ma quindi adesso l'aspettativa, secondo te, di un calciatore qual è? Vinci 3-0 con la Fiorentina, vinci 4-0 a Wolfsburg, adesso vai a Cagliari e poi però ti aspetti di tornare a casa. No, va bene, ma sai, non c'è il concetto adesso andiamo avanti ad oltranza perché è andata bene, è giusto per i tifosi. No, ma no. Sì, vabbè, ma questo poi sai, i tifosi magari adesso si può fare anche una battuta, ci mancherebbe. Però ecco, non è che puoi stare in ritiro per due mesi, poi quello sarebbe controproducente. È giusto magari qualche giorno prima della gara, magari ti ritrovi e concentrarti. Magari se il problema del Napoli in questo ultimo periodo è stata la concentrazione, perché abbiamo detto tutti quanti che il Napoli mancava di di un po' di personalità e di concentrazione in alcuni frangenti della partita che poi permettevano agli avversari di raggiungerlo, addirittura di vincere la partita. Perché Napoli è forte, lo sappiamo, penso che lo abbiamo visto tutti, e può competere in Europa alla grande, e lo ha dimostrato anche ieri sera. Quindi un po' di concentrazione in più, magari un giorno di ritiro in più, non fa male. Certo che Pierluigi, dopo aver visto il Napoli ieri sera, qualche tifoso del Napoli potrebbe, a ragione, essere arrabbiato un pelino per ciò che poteva essere e non è stato, no? Beh, insomma, io l'ho visto tante volte quest'anno in Napoli, ce l'ho anche commentato, e è chiaro che stamattina il carro di Rafa Benitez è improvvisamente tornato a essere molto trafficato e molto pieno, però è altrettanto vero, che perché Napoli visto contro il Torino, per esempio, contro il Palermo, contro il Verona, contro l'Atalanta in casa, è un'altra squadra, sono altri, non mi convincerete mai che sono le stesse persone, perché la differenza di rendimento è enorme, al di là di quel fatto lì che sicuramente queste due partite meravigliose con Fiorentina e Wolfsburg sono cominciate bene e si sono messe dunque su un binario tattico favorevole, però ripeto, se cominciano bene è anche perché Napoli ha segnato, quindi insomma, non è che c'è stato il soprannaturale divino che ti ha dato un gol di vantaggio, te lo sei guadagnato. Sì. Però sì, sembrano due squadre diverse, sono due squadre completamente diverse. Io ti dico che nell'allenamento della rifinitura non posso dirti chi, ma non è un personaggio famoso, una persona che lavora nel Napoli mi ha confidato una situazione molto positiva e mi ha detto: il carro si è chiuso alle ore 15 di domenica scorsa, cioè chi è sopra, quelli che sostengono la squadra e che ci credono, gli ottimisti sono a bordo, gli altri, per gli altri non c'è più spazio, facendomi capire che le sensazioni poi all'interno del gruppo sono molto positive dal punto di vista fisico su questo finale di stagione, e sul ritiro io penso che loro non siano contenti, si è capito nella conferenza stampa, cioè la scelta di De Laurentiis secondo me non è stata troppo digerita, però alla fine se poi questo è il risultato, sai, pure Capello faceva arrabbiare Montella nell'anno dello scudetto della Roma, Montella era arrabbiato e segnava sempre, secondo me la dinamica è un po' questa, cioè, i giocatori secondo me sono un po' infastiditi, Benitez dice che il suo metodo è diverso ma che lui ha obbedito per ragioni di Stato, però intanto mi sembra che abbiano la sensazione di dimostrare al mondo che sono un grande gruppo, e De Laurentiis magari li conosce meglio di me, di te, e ha fatto questa cosa anche per tirar fuori questo amor proprio. Qualcuno ha detto che era una mossa un po' populista per accontentare i tifosi, qualcun altro ha detto che era una mossa punitiva nei confronti di Benitez. Implicitamente però quella che anche l'osservazione che fa Pierre è una critica nei confronti di Benitez, cioè se il gruppo è questo ed è bastato stringere i cordoni per farlo reagire in questa maniera, evidentemente si poteva fare prima, poteva farlo forse De Laurentiis prima, stando un po' più vicino al Napoli in questo inizio di 2015, ma mi pare chiaro che Benitez non ci ha capito molto in quest'ultima fase della sua gestione. Io non so anche Pino cosa ne pensi. No, ma diciamo che sai, non si sa mai qual è la cosa giusta in certe situazioni. Certo, se tu fai il ritiro troppo tempo, quello sicuramente è controproducente, come ho detto prima, magari era il momento giusto per farlo, proprio perché sei arrivato a un punto tale la stagione che non puoi più sbagliare, e quindi in questo caso è andata bene. Adesso non credo che sia stato solo il ritiro a far vincere il Napoli, magari i giocatori hanno capito che ci voleva qualcosina in più, perché secondo me il Napoli ha delle qualità importanti in campo che non sono state espresse per tutto il campionato, magari in fase sono alternate delle prestazioni positive e alcune negative. Ma guarda caso, decidono le star, no? Guarda caso, certo, Higuain sembra quasi scegliere le partite a seconda di quelle che gli piacciono di più. Hamsik è ricomparso, come diceva prima Pier, dopo che si era perso nella nebbia mille volte. È chiaro che quando hai questi ti fanno la differenza. È una questione di adrenalina della partita, dell'importanza della partita, e quando c'è un evento importante è molto più semplice preparare anche una partita, no? Che magari giocare contro il Palermo, magari non me ne voglio, Palermo che io adoro, ci ho giocato due anni, magari contro il Chievo. Ora, però posso dire anche però che importante come questa è semplice prepararla a livello mentale. Ieri Benitez ha fatto un capolavoro, per questo va riconosciuto. Tante volte ci siamo interrogati, abbiamo anche stavo criticato la sua scarsa lucidità tattica, questa ossessione del 4-2-3-1. Ieri il 4-2-3-1 ha funzionato alla grande, e soprattutto gli interpreti che lui ha scelto hanno funzionato. Io ti dico la verità, quando ho visto la formazione, io pensavo a De Guzman al posto di Hamsik, perché il Wolfsburg comunque in casa è una squadra molto forte, veniva da 9 vittorie consecutive. De Guzman è un po' la coperta di Dino, è un giocatore che gli dà più copertura in mezzo al campo. Lui si è preso un rischio, e questo rischio è stato eccezionale. Iller, David Lopez, centrocampo fisico. più di possesso palla, più grosso fisicamente che veloce, rinunciando al dinamismo di Gargano, ha funzionato. Britos al centro della difesa poteva sembrare un azzardo, perché insomma un po' di errori in carriera l'ha fatto Britos e anche quello è andato. Maggio sembra, non lo so, ieri sera sembrava l'omino della Duracell, una roba veramente fuori dal mondo. Insomma, Andújar ha fatto due parate importanti al momento giusto. Cioè, io credo che per onestà intellettuale, così come abbiamo tante volte criticato l'atteggiamento della squadra, insomma, ieri è un capolavoro del signor Rafa Benitez da Madrid. Sì, Enrico, adesso ricomincia il tormentone, va o resta, e lui dice dipende dagli investimenti. Secondo me lì è a me sembra preciso. Che vada, mi sembra pure. Che anche le parole di ieri sera siano parole che spingono in questo senso. Sì, ma l'importante è che, perché questo tu a metà aprile, però, quando hai per l'ennesima volta rimandato tutti gli appuntamenti, hai detto bah, il 16 il mio compleanno dopo il Wolfsburg, mi trovo con De Laurentiis, se poi vi dico, e tu rilanci con discorsi di macroeconomia, perché poi ha messo dentro il centro sportivo, business plan, investimenti, cose che toccano il Napoli, società anche, non solo magari il rafforzamento della squadra, secondo me è un modo elegante per sfilarsi, però questa è la mia impressione. La tua, Pino? Ah, guarda, io apprezzo tantissimo l'allenatore Benitez, anche l'uomo, poi adesso, ecco, non è semplice magari svincolarsi in questo momento, anche perché è un momento abbastanza delicato della stagione, probabilmente come sarà, come dite voi, che va via, però io spero sempre che possa rimanere per una semplice questione, magari di continuare su questo percorso, perché adesso con l'arrivo di un altro allenatore devi riprogrammare tutto da capo e si perde magari un po' di tempo solo per questo. E poi sinceramente a me piace come allenatore Benitez, anche perché è una caratura internazionale, lo stiamo vedendo in Europa lì, quindi questo a me farebbe piacere che Benitez continuasse con il Napoli. Senti, ma per chiudere, definitivamente risolta la querela dei portieri, prima uno, poi l'altro, poi uno, Andújar il titolare e Rafa sta seduto? Assolutamente sì, che lo sta facendo a suon di prestazioni, quindi adesso il titolare è Andújar, e ieri ha fatto una grandissima partita, perché anche all'inizio della partita ha fatto una gran bella parata. Grazie Pino. Grazie a voi, grazie, un abbraccio mille. A tutti, grazie. Comunque il segreto è molto semplice, è De Luca. È il nostro Giorgio De Luca, sì, del Napoli. L'abbiamo mandato al di là. Gli ho scritto questa notte, Pier. Gli ho detto: hai scelto il giorno giusto per andare via. Gli ho mandato le prime pagine. Invece mi ha scritto al 92esimo, due minuti dopo che finisce la partita, dalla California, dicendo: ho capito, non torno più. Non torno più. A fare un passo indietro per la patria. È sicuramente molto positivo, perché è partito e Napoli ha vinto contro la Fiorentina. Ha vinto la Fiorentina, ha asfaltato il Wolfsburg, ha prenotato la semifinale di Europa League. E stiamo allacciati perché, ripeto, poi ne parliamo subito dopo la borsa. La settimana prossima, toccate quello che volete, tanto non per radio non si vede. Settimana prossima potremmo fare l'emplen, come dicono a Monte Carlo. Borsa. Per arrivare alla spiaggia senza morire. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Fiorentina di ogni squadra. Tu sei la regina. Papa papa. Fiorentina. Di ogni squadra ti voglia regina. Dal vento il lavaro viola sui campi della sfida e del valore. Montella meglio come allenatore, come giocatore, come canterino. Perché? A me non è dispiaciuto, Adesso Pardo fa molto meglio. Prova, Pier. La Fiorentina. Altra cosa. Di tutte le squadre, la regina, mi pare. Però andiamo un po' giù, Fiorentina. Abbiamo urlato già ieri. Ma povero Pierluigi. Cioè, anche Montella. Non so come faccia ad avere ancora la voce, giuro. Pierluigi Pardo. Ma figurati, ma lì è il microfono che dà una mano. Ma poi è bello, eh. È certo, è bello. Guarda, poi se vediamo danni complessi, no? Ma no, ma infatti è la primavera delle squadre italiane in Europa ed è di questo che vogliamo parlare, il Napoli, la Fiorentina e speriamo che la Juventus, speriamo tutte e tre, l'ho detto prima, un bel plan. Alberto Como, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono un simpatizzante del calcio, non sono un tifoso, nel senso, guardo sì. il calcio, mi piace un po' la Juventus. Sì. Però devo dire che se ieri sera al posto di Higuaín c'era un giocatore della Juventus, eravamo qui a parlare di fuorigioco e fallo di mano. La mano de Dios. La mano de Dios, sì. No, no. La mano de... Non so, io l'ho vista così, poi posso sì, dire, sì. Guardo, sì. Io, guardi, io ho fatto la telecronaca, fra l'altro ieri sera in esclusiva, quindi diciamo che non è che voglio fare il figo io, però era diciamo la prima voce ufficiale che è arrivata a milioni di persone e ho detto che c'erano dei dubbi su quel gol. Poi chiaramente la trattazione di quegli episodi spetta al moviolista, che è Graziano Cesari, che mi pare abbia visto che non c'era fuori gioco, mentre poteva fare... Fallo di mano. Comunque di mano. Ieri sera ho goduto per il Napoli, sono contentissimo, ho goduto per la Fiorentina, perché quando giocano le italiane bisogna tifare Italia, lasciando sì, perdere il colore della maglia. Non è che bisogna, nel senso che poi ognuno fa quello che gli pare, non è che al sport non si comanda, no? Cioè, se uno vuole fare gufi, diciamo che mi sembra assurdo forzare il pensiero di una persona, però ecco, poi può essere un momento più razionale, sì. perché anche la squadra che ha vinto in Europa non è la tua rivale, però alla fine ti porti a casa la sensazione da italiano che le cose stanno cominciando a girare un po' meglio. Ti posso dire che ieri sera era bellissimo sì, la Volkswagen sì. Arena, perché c'erano oltre 1.300 tifosi italiani del 78, c'erano tanti tifosi italiani, napoletani, ma non solo, mescolati nelle tribune. Sì. E insomma, senza fare della sociologia spicciola, ma insomma, lì c'è gente che magari è andata a vivere in Germania due generazioni fa, che qualche volta certo, si ripete di tutto, mafiosi, una delle cose più simpatiche. Insomma, l'idea che il calcio con questa metafora, con questo gioco, riesca a regalare un sorriso a queste persone, che lo faccia piacere a tutti, anche se poi uno dice per la Juve, per l'Inter, per il Torino, per la Fiorentina. Tu sai, Pier, che c'è anche una squadra di pensiero che dice si tifa per le italiane fino alla finale, poi in finale si gufa, no, che è la via di mezzo, è l'evoluzione. È l'evoluzione della per specie. Si tifa un po' il ranking UEFA e le italiane, però poi alla fine è troppo forte. Una, no? una bandiera nella mano e l'altra sul ranking UEFA, e poi in finale vada come vada. Un tricolore nella mano e nell'altra ranking UEFA. Paolo da Milano, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Anche lei, tricolore mano sinistra, ranking UEFA appoggiato. La mia domanda infatti è un po' tecnica, cioè nel senso, se il Napoli o la Fiorentina dovessero vincere l'Europa League e quindi andare in Champions, ma in campionato dovessero arrivare settime, una delle due, cioè la vincente arriva settima. Avremo la settima italiana. È l'unico caso in cui avremo sette italiane iscritte alle coppe europee. Quindi ma è certo questa cosa, perché io ho letto. È certa così. È l'unico caso. In ogni altro caso ne abbiamo sempre sei che possono diventare quattro e due, cioè quattro in Champions e due in Europa League, oppure 3-3, ma sempre 6. Se chi vince l'Europa League è arrivato settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, cinquantesimo nel proprio campionato, allora guadagni uno slot in più, un posto in più. Io sono granata a questo punto, tipo Napoli o Fiorentina. A questo punto però devi superarlo. Sì. Eh no, però devi entrare nei primi 6, sennò sei fuori, chiaro. La verità è che questa cosa, fra l'altro, Infantino, il segretario dell'UEFA, l'aveva chiarita, perché insomma qualche dichiarazione di Galliani aveva ingenerato un po' di ottimismo ingiusto. Diciamo che quello che devono fare Torino, Genoa, Inter, Milan, le squadre che ancora sognano un posto in Europa League, è arrivare sette, perché non c'è, per loro non c'è speranza se non arrivano sette. Se poi una fra Napoli e Fiorentina dovesse scendere in campionato, difficile, ma potrebbe anche succedere, sotto al sesto posto e contestualmente vincere l'Europa League, allora a quel punto avremmo fatto bingo, avremmo fatto sette squadre. Se invece, come è più probabile, un'eventuale vincitrice dovesse essere fra il quarto e il sesto posto, a quel punto avremo l'anno prossimo quattro squadre in Champions e due in Europa League, sì. Quindi sempre sei squadre. O anche la Juve, se vince la Champions ma arriva settima in campionato, questa è un'ipotesi probabile, no? altamente probabile. Senti, ma brutalmente, ecco Giovanni Galli, lo stavamo aspettando. Ciao Giovanni, grazie. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Senti, stavamo giusto per parlare della Viola che ha riannodato i fili spezzati da Juventus e Napoli. Tutto sommato, splendida partita ieri a Kiev, no? Sì, ma credo che la partita con la Juventus, come trovarsi in mezzo alla strada con un tir contro mano. Questo è successo. Purtroppo sono stati asfaltati in una partita dove c'era grande aspettativa, dove il risultato dell'andata magari dava, no, già faceva pregustare il fatto di aver eliminato la Juventus e andarsi a disputare per il secondo anno consecutivo la finale di Coppa Italia. Purtroppo quel 3-0 ha distrutto moralmente e psicologicamente tutti, e le conseguenze se le sono portate dietro anche nella domenica successiva a Napoli. Guarda, penso che il fatto di aver disputato questa partita all'estero contro una squadra, no, che non conosci, o perlomeno insomma hai delle relazioni, dei filmati, ma non hai mai in un ambiente diverso, in un paese diverso, no, tutte diciamo sensazioni e emozioni diverse, abbiano scaricato, no, dalle spalle il peso di queste due sconfitte. E la Fiorentina è tornata a fare quello che sapeva fare fino a 15 giorni fa. Sì, certo. Non dimentichiamo che ha vinto una partita difficilissima, giocando molto bene con la Sampdoria, arrivava da una serie di risultati importanti, la qualificazione contro la Roma, la vittoria sempre di Torino all'andata, San Siro, insomma, aveva fatto una serie di risultati decisamente molto importanti, e queste due partite avevano un po' frenato entusiasmo, crescita della squadra, ancor di più autostima e convinzione. C'è chi accampa, guarda, sì. No, dicevo, ieri sera invece abbiamo rivisto una squadra libera mentalmente. Sì, sì. Libera mentalmente, che però ha quasi rischiato di venire punita nell'unica occasione, perché poi dopo non è stato neanche un tiro, perché voglio dire, il tiro è stato rimpallato, è venuta fuori questa parabola. Poi la Dinamo Kiev effettivamente ha giocato forse di rimessa, chiamiamo il vecchio contropiede, e la Fiorentina ha fatto la partita, c'erano due calci di rigore clamorosi a favore della squadra di Montella. No, ma hai detto bene tu, guarda, è tornata la Fiorentina libera mentalmente. L'ultima cosa che volevo chiedere a Pardo prima di salutarlo, c'è chi accampa proprio per questo, no? C'è chi accampa il sospetto che la Fiorentina sia una squadra che invece sotto pressione ha qualche difficoltà. Beh, il dubbio ce l'abbiamo, certe volte però sai, l'essere sotto pressione è anche magari non essere bravo abbastanza, ci può stare. Ieri sera c'era Guerini nel prepartita su Premium che diceva una cosa giusta, cioè è chiaro che poi alla fine festeggia solo chi vince, ma ci sono degli obiettivi intermedi che sono obiettivi importanti. Se alla fine dell'anno dovesse festeggiare solo chi vince, saremmo, no? Il calcio, certo, sarebbe, certo, una roba, però sai, quando fai la rimonta, quando fai arrivi la Juve è stato uno shock ed è stata una grande occasione persa per come si era messa l'andata, per i Viola non ci sono dubbi, però tante volte è semplicemente il fatto che la Fiorentina è diventata grande, è cresciuta in questi anni, però poi quando arrivano gli avversari un po' più forti può cedere. Questo secondo me ci può stare, insomma. E detto questo, io penso che sia una bella autostrada adesso, ho detto con tutte le tutti gli scongiuri del mondo, insomma, l'1-1 è un buon risultato e si può arrivare in semifinale. E voglio dirti, se la Fiorentina adesso a Firenze si toccheranno, faranno, se si dovesse fermare in semifinale sarebbe stato comunque un grande cammino. Cioè noi dobbiamo anche vivere le cose per quello che sono. Sicuro. Alla fine vince una, sicuro. Sì, sì, la stagione la valuti, la valuti da un punto di vista sportivo nel complesso, quindi sarebbe certamente un grande risultato una semifinale. Pierluigi, io ti ringrazio. Giovanni Galli, chiedo ancora un attimo di pazienza, così chiudiamo il discorso anche sul Napoli, pure con lui. Traffico. Questo era quello che avete detto il mister, di concentrare tutto, dal primo all'ultimo, quali sono in panchina, quali sono dentro. Quindi sono entrato con questo atteggiamento, grazie a Dio sono riuscito a fare gol. Tutti convocati. Matti Fernandez, la finta, poi il cross, Babacar può andare di testa anticipato, non è finita ancora Babacar, 1-1, 1-1, in due tempi ci ha provato Babacar, Dinamo Kiev 1, Fiorentina 1, strameritato. Molto meglio lui di Marione Gomez. Ecco, io mi chiedo se abbia senso per la Fiorentina insistere su Marione Gomez titolare e su Babacar che si alza. Credo abbia fatto 9 gol in questa stagione, praticamente facendo la riserva sempre. Ed essendo anche infortunato. Tema aperto, credo. Giovanni Galli. Sì, che ne pensi? Tema aperto. Da Gomez, il primo giorno che arrivò a Firenze, ci sono state delle grandi aspettative, perché la sua storia ha sempre parlato di gol. La sua storia è stata costruita con i gol, non con il gioco, no, con i gol e basta, perché è sempre stato un uomo d'area di rigore, un finalizzatore, e questa è sempre stata la sua forza. Probabilmente delle due l'una, la Fiorentina ha un certo tipo di calcio, un calcio fatto di tanti fraseggi, un calcio forse si può anche dire complicato per certi aspetti, complicato, sì. Perché ha sempre avuto in passato, quando è partita l'avventura di Montella, prima aveva gli Aic e Jovetic come attaccanti, e poi nelle due stagioni successive c'era un certo Pepito Rossi, per quello che è stato utilizzato, no? Per quel poco è stato utilizzato. Che faceva Pepito Rossi? Qual è la differenza? Così arrivo al dunque. Che Pepito Rossi era un giocatore che sapeva far giocare la squadra, perché era lì davanti un punto di riferimento per la grande abilità tecnica e il fraseggio della Fiorentina nell'area di rigore avversaria. Ricordate le conclusioni e i gol di Aquilani, Borca Valero che arrivava spessissimo sempre davanti alla porta, proprio perché aveva gli interni di centrocampo con qualità che utilizzavano la bravura, la capacità, no, di fraseggio di un giocatore straordinario come Pepito Rossi. Gomez è l'opposto. Certo. Gomez ha bisogno della squadra, e allora bisogna capire se il sacrificio lo deve fare Gomez per la squadra, no? O è la squadra che lo deve fare per Gomez. Cioè, o si mette Gomez nelle condizioni con dei cross, no? Con delle giocate che per lui sono quelle che gli servono per fare gol, oppure se si sacrifica le qualità di Gomez e si mette Gomez a disposizione della squadra. Sì, sì. Non ci sono alternative, l'abbiamo visto ieri sera. Sì, sì, Salah che gioca a destra, mancino per rientrare e andare alla conclusione. Joaquin che gioca a sinistra, rientra con il destro per andare alla conclusione, ed è logico che è Gomez lì davanti e corre il rischio di non prenderla mai. Certo. Lo utilizzi solo ed esclusivamente nella fase di uscita, quando la palla viene calciata lunga, lui tiene palla per far salire la squadra. E fa qualche sponda, ma non sembra essere la sua squadra. Non sembra essere la sua squadra. Capisci? È questo. Però io credo che non si debba. È come destro nel Milan. È la stessa identica cosa. Se te hai due giocatori come Cerci e come Menez, bisogna capire se si vuol far fare gol a Cerci e a Menez o se si vuol far fare gol a destro. Destro è straordinario perché allunga le squadre avversarie e permette a Cerci di entrare da destra verso il centro e calciare in porta, e di Menez di fare l'altrettanto. E allora il Milan sfrutta i gol di Cerci, ma soprattutto di Menez, sacrificando quelli di destro. E purtroppo quando hai giocatori con determinate caratteristiche cerchi di assemblarli nel miglior modo possibile, ma l'intelligenza dell'allenatore, della società, ma soprattutto della squadra è quella di non perderlo quel giocatore, ma anzi di valorizzarlo perché lavora per la squadra e mette a repentaglio, no, la sua credibilità, però la mette a repentaglio per la squadra. Certo. Grazie Giovanni. Grazie a voi, ciao, arrivederci. Comunque Fiorentina forte, Fiorentina mi ha dato forte. L'idea di poter arrivare fino in fondo, anche se è vera la questione della pressione, poi andrà verificata, però bisogna vedere se non hai nervi di vetro, Giovanni. Però la Fiorentina ieri ha fatto una partita che meritava di finire diversamente. Giovanni ha ragione, c'erano due rigori, ci sono state tante situazioni che avrebbero potuto cambiare la partita e sarebbe anche potuta finire come quella di Fosburg. Il Napoli è la grande favorita a questo punto. Napoli è la favorita, ma lo è favorita secondo me da almeno un paio di turni, cioè da quando sono uscite alcune inglesi, da quando è uscito il Liverpool. Cioè la domanda è: ma chi in Europa Liga ha Higuain? Chi in Europa Liga ha Caleon, Mertens, ha questa gente qui? Amsic. Esatto. Ce li ha solo il Napoli, da quando credo ai sedicesimi di finale qualcuno ha abbandonato la corsa. A me viene in mente il Liverpool, che forse poteva essere la vera favorita di questa Europa League, perché Liverpool comunque, Balotelli a parte, è una squadra forte. Poi è caduto anche il Tottenham, ma questo non per sminuire quello che è rimasto in Europa League. La verità è che il Napoli ha la rosa più formata in questo momento. Sì, sì. Marco Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della convocazione innanzitutto. Niente, Marco, per sottolineare diciamo il buon momento delle squadre italiane in Europa, io lo chiamo un po' il ritorno delle squadre italiane in Europa, secondo me. Io sono tifoso juventino, premetto, ma non di quelli coi parocchi. Dire che insomma, io sono contento se le squadre italiane vanno avanti in qualunque competizione. Io volevo solo sottoporre a voi un quesito. Juventus, speriamo che vada in semifinale, e le altre due speriamo che vada in semifinale. Ma tutto questo bistrattamento del nostro campionato, che siamo diventati la quinta forza in Europa, ma insomma, io vedere gli altri non è che vedo questo grandissimo calcio, a parte comunque, il Barcellona. Comunque, prendiamo il Barcellona. Guardi, la considerazione è interessante. Secondo me dalle coppe non si possono trarre conclusioni di sistema. Cioè, ci sono annate in cui... Anche perché ieri sera c'era un titolare su 22 italiano. Sì. Un titolare su 22. L'ottimo Maggio, che tra l'altro non è più azzurrabile perché si è ritirato. Certo. Ci dobbiamo fermare per il GR. Alessandro da Milano, stia lì, torniamo subito. Volevo fare gli auguri a Pardo, perché oggi è la giornata mondiale del gatto, e chi meglio di lui è un bel gatto pardone. Tutti convocati. Adesso non fate le capriole sul divano, sulla scrivania o sul tappeto, però le due Ferrari nelle prime prove libere a Shakir, in vista del Gran Premio di domenica, sono Raikkonen primo, Vettel secondo, quindi in testa al gruppo. Tra l'altro Vettel ha avuto anche un problemino al motore, sensore guasto, girato pochi giri, ma secondo tempo. Poi c'è Bottas, Sainz, ma attenzione, perché le Mercedes hanno giocato a nascondino, o meglio, si sono preparate, stanno facendo le prove per le prove di domani, che conteranno per la griglia di partenza e soprattutto per la corsa. Intanto Ferrari davanti agli altri. Sempre con me Giovanni Capuano, ascoltatore in linea. Due Alessandro, uno da Milano e uno da Pescara. Partiamo da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno, ciao. Ma io sono milanista, volevo parlare un po' di buffismo e portare un po' la testimonianza dei milanisti, che in questo periodo sono un po' depressi. Sì. Però devo dire che noi, dall'alto delle nostre sette coppe con le orecchie in bacheca, non abbiamo bisogno di gufare nessuno, perché di veri rivali in Italia, insomma, francamente non ne abbiamo. Quindi ascolto anche, sto ascoltando con molta tenerezza queste cose sull'Europa League, eccetera. Molta tenerezza, eh? Stai parlando del campionato quello delle vecchie glorie. Sai, le leggende, quelle che mandano in giro per il mondo. Milano è una gran memorial, queste robe. Memorial, quelli lì. Bene, per carità, sono contento. Infatti, se la Juventus vince il triplete, non interessa, perché tanto no, tu ne hai sette. Perché è una squadra minore, no? Ma io credo che per tutti i milanisti del mondo l'universo, la vita, la visione delle cose sia cambiata una notte a Manchester. Mi sbaglio? Sì, allora tu puoi vivere di rendita su quella roba lì del 2003. Credo che su quella si possa vivere di rendita. Io credo che invece l'amico dovrebbe concentrarsi, lui e i suoi amici interisti, di più su un altro dato. Negli ultimi tre anni e mezzo Inter e Milan insieme hanno preso 222 punti dalla Juventus. Sì, allora, va bene Manchester del 2003, no, Mazzola, Cesare Maldini, sono storie bellissime, però è il passato. No, ma il presente è fatto di simpatiche sgambate a livello regionale, dove noi le prendiamo ultimamente. Però la storia del calcio italiano è una serie di parentesi tra una Champions del Milan e l'altra. Sì, non proprio tutte. Una serie di simpatiche sgambate improvvise. C'è una simpatica sgambata anche domenica sera, la straprovinciale, la stracittadina. Comunque, secondo me l'amico è parente di Gagliani, cioè è l'unico che riesce a rivaleggiare con Gagliani. No, ma ha ragione. Nella considerazione del marchio. Tanto domenica dicevamo questa simpatica sgambata sotto le luci di San Siro, magari fanno pagare anche il campo, il pedaggio, dovranno pagare il campo quelli che giocano, come a calcetto. Il derby più depresso degli ultimi, quasi il più depresso in realtà, è il terzo più depresso della dopoguerra, perché oggi ho letto da qualche parte 1942-1958, in questi due campionati Inter e Milan arrivarono al derby una nona e l'altra undicesima. Oggi sono una nona e l'altra decima, e quindi diciamo carte alla mano, questo è il terzo derby più depresso di sempre. Ma secondo me la grande depressione è che nessuna delle due seriamente sa quando potrà finire questo tunnel, perché noi possiamo anche accontentarci un anno o due di vivere dei derby così, però il problema, adesso faccio un discorso di quelli seri, il problema è che il calcio italiano ha bisogno dell'Inter e del Milan così come aveva bisogno della Juventus nel periodo post Calciopoli, e invece non c'è traccia di un ritorno di Inter e Milan a certi livelli. Noi aspettiamo le cordate, i thailandesi, i cinesi, facciamo mozione di fiducia nei confronti di Toir, però al momento la strada che viene disegnata davanti è abbastanza lunga. Sì, è abbastanza lunga, lunga impervia, e comunque non passerà per l'Europa nemmeno l'anno 21, perché non ci credo nemmeno se li vedo che a fine campionato che una di queste due squadre possa andare in Europa League. Alessandro Pescara, buongiorno. Buongiorno, salve, grazie per la convocazione. Grazie. Io volevo fare una considerazione. Secondo voi quanto conta l'allenatore di calcio in una squadra? Secondo me siamo intorno all'80%. Secondo voi, volevo chiedere questo. Secondo me, infatti, molto meno. Siamo andati un po' larghi, però conta, eh. Infatti, per notare questa cosa, che cosa pensavate voi del fatto che il Milan, io sono milanista, non punta mai su un allenatore di spessore per rilanciarsi? Ad esempio, a me fa impazzire l'allenatore del Siviglia, Unai Emery. Volevo chiedere un parere su questo. Di cui si era parlato peraltro. Sì, ma è uno dei 250 in lista per la panchina del Milan, posto che non si è ancora capito cosa sarà il Milan nei prossimi mesi, e quindi a questo punto vale tutto, compreso il fatto che resti Inzaghi, che si aspetti il 2016 quando si libera Conte. Ci sono mille cose che attraversano il Milan in questo momento. Io sul mai e sul sempre però andrei calmo, cioè il Milan non è vero che non ha mai scelto allenatori di polso, di peso per rialzarsi. Mi viene in mente Ancelotti, ad esempio. Ancelotti fu una scelta di un allenatore che forse allora non era quello che è oggi, ma certamente era un allenatore di un certo profilo. Il problema secondo me è a monte, cioè in questo momento il Milan non ha la possibilità, ha la voglia di mettere in campo un piano di investimenti per tornare quello che era, e quindi l'allenatore è l'ultimo tassello di questa catena. Ti voglio parlare un po' di Juventus adesso. Domani c'è una partitissima, cioè una partita tra la Juventus e la squadra più in forma d'Italia in questo momento, Juventus-Lazio. Sentiamo cosa hanno detto oggi Allegri e Pioli, e poi spiegherai con un amico che ha il telefono perché i tifosi della Juventus questa mattina si sono svegliati con un sorrisone, almeno quelli che hanno letto la stampa. Nessuno poteva immaginare che la Lazio in questo momento del campionato potesse essere al secondo posto. Vengono da 8 vittorie, hanno subito gli stessi gol che abbiamo subito noi nel girone di ritorno, e quindi domani è una partita a scudetto. Io credo che la partita sia, arriva la partita nel momento giusto, cioè nel senso che cosa vogliamo di più dalla nostra vita? Siamo fortunati, facciamo il lavoro più bello del mondo, alleno una squadra, un grande gruppo, e veniamo da una striscia positiva, giochiamo contro la squadra più forte del campionato nel nostro momento migliore, di sera con lo stadio pieno. Quindi mi aspetto la Lazio la migliore possibile. Questo era Pioli. Allora Giovanni, spiega un po' perché la Juventus, i juventini sono svegliati felici. A parte che c'è anche chi si è svegliato arrabbiato, però questa mattina chi ha avuto in mano la stampa, sì, o chi su Twitter segue chiocciola Max Nerozzi e quindi ha avuto l'anticipazione, sì, del corso in edicola a comprare la stampa, ha scoperto che la Juve è d'accordo con Cavani per la prossima stagione. La questione è quasi definita. C'è come postilla che l'accordo scatta nel momento in cui la Juve ha la certezza di vendere Pogba, però insomma la Juventus riporterebbe in Italia Cavani, ci sono le cifre, c'è, sì, il contratto, c'è un po' tutto il progetto tattico, c'è anche la storia di un SMS Galeotto. Adesso ce la facciamo spiegare, adesso ci facciamo spiegare, perché è la parte così che non ho capito. Avviso ai lettori, la notizia verrà smentita oggi e per settimane, come fu per l'arrivo di Evra, scritto e negato a maggio, e a luglio arrivò per la gita a Vinovo di Van Persie, ammessa dopo qualche mese. Ciao Max. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, non c'è ancora smentita? Ti risultano smentite? L'arrivo di Cavani alla Juventus? Al momento no, ma magari, cioè, fa sempre il tempo a arrivare smentite, ma non è un problema. No, la cosa divertente è che ormai nel mondo del calcio tutti possono dire bugie, tutti, sì, agenti, procuratori, giocatori, allenatori, tranne i giornalisti. Sì, esatto, esatto. Però questa di Cavani sembra una storia vera, non un'avventura. Ma non lo so, sì, non sto vedendo, c'è un romanzino che scrisse: se abbastanza gente crede una bugia, smette di essere una bugia. Quindi magari se ci credete anche voi, è la verità questa. Sta facendo finta, sta facendo finta, perché per scrivere sulla Stampa, che non è un quotidiano qualsiasi nel mondo Juventus, senza condizionali, così come ha scritto Max oggi la notizia di Cavani alla Juventus, secondo me bisogna avere in mano la notizia, non è che si butta lì tanto per riempire mezza pagina, no Max? No, quello come no, facciamo no, tante volte. No, quello no, no, quello no. Dopodiché, vuol dire, dopo aver visto, non so, per citare l'ultimo caso, Guarin Vucinic, dopo le visite mediche non fanno affare, ho visto di tutto, però a oggi o a ieri, io penso che Cavani giocherà nella Juventus il prossimo anno. Perché c'è l'accordo tra tutti e è da tanto che la Juve lavora questo affare qua. Gli avevano detto anche Marotta e Paratici, non specificatamente su Cavani, ma che volevano arrivare al punto che se mai fosse venduto Pogba, perché questo non si sa, secondo me è probabile, questa è la condizione, però, ecco, no? Esatto, non vorrebbero poi mettersi a cercare giocatori per fare una squadra, perché secondo me sarebbe la cosa peggiore, perché dopo che tu hai incassato un assegnone, dopo sei finito. E per questo si sono mossi, si stanno muovendo anche su Oscar, che abbiamo scritto, ne avete parlato anche voi qualche settimana fa, però ecco, su Cavani ci sono ragionevoli certezze, al di là delle chiacchiere o i pupari con gli agenti che si fanno spesso, insomma. Senti Max, ma è una questione di Pogba o dietro la scelta di un nome pesante, importante come Cavani, c'è anche l'altro discorso, quello di Tevez? Guarda, da quel che so io, Cavani viene trattato da abbastanza tempo e prescinde da una permanenza o meno di Tevez. E dopodiché sarà un rafforzativo. Se Tevez mai decidesse di andare via già a giugno, cioè anticipando di un anno la fine del contratto, io penso che alla fine a questi livelli le squadre le fai anche con i nomi, oggettivamente. E presentarsi in asse di partenza senza Tevez, chissà, forse senza Pogba, e presentare Dybala, che per me è un probabilmente diventerà un grandissimo giocatore. Però ecco, Cavani ha tutta un'altra struttura di giocatore e soprattutto tutto un altro pedigree di goleador, insomma. Spiega a Giovanni Capuano la storia degli SMS. Ma guarda, è presto fatta, probabilmente o io sono stato troppo ermetico perché avevo paura di mettere nei guai qualcuno. No, sostanzialmente uno delle persone che ha fatto l'affare ha spedito un SMS, bontà sua, a... poteva essere, non so, Giovanni Capuano, che non tratta calcio, diciamo, ma conosce per altre strade questa persona, e il contenuto dell'SMS è quello scritto, cioè abbiamo preso Cavani, tutto fatto. Hai capito. Dopodiché su quello uno ci lavora, però ecco, lavorandoci sono venute fuori più conferme che smentite, e da qui nasce la convinzione che sia vero. Dopodiché sono pronto a giugno a essere giustiziato. Sì, ma figurati, la storia del calciomercato è piena di giornalisti giustiziati per notizie che poi non si sono rivelate o non si sono concretizzate, erano vere magari nel momento in cui sono state scritte, poi per mille motivi sono svenite. No, ma su Tevez però mi interessa, perché io se leggo due o tre cose lette negli ultimi giorni, anche quelle non banali, perché le firmano giornalisti non banali, devo capire o posso provare a capire che forse anche la Juventus, per quanto in un clima di amicizia, serenità, appoggeremo Carlos e tutto quello che è stato detto e scritto, violini compresi, forse ha voglia di sapere che cosa vuol fare Tevez, perché è ingombrante andare avanti un mese, due mesi con questo dubbio di Tevez va, resta, soprattutto davanti a un'estate in cui magari hai soldi da mettere sul mercato per fare degli investimenti. È vero, le perplessità che Tevez aveva fatto sui giornali già da qualche settimana ovviamente le ha palesate anche con la società. La versione della società è: non decidiamo adesso, non facciamo sapere adesso come andrà a finire, perché ci stiamo giocando la Champions del campionato, però è chiaro che avere o non avere Tevez fa la differenza. E quindi prima lo sai, meglio è. Io ho l'impressione che la Juve comunque abbia, insomma, pensi di avere ancora qualche chance di convincerlo a rimandare il ritorno, sì, il prossimo a anno. Tevez si può dire tutto, ma si è dimostrato abbastanza serio in questi anni qua, e lui ha sempre ripetuto, tranne appunto l'ultima nostalgia di questi mesi, che lui veniva qua, faceva 3 anni, rispettava il contratto, ma già, mi ricordo come fosse adesso, alla presentazione allo Juventus Stadium disse: io faccio 3 anni e poi torno al Boca. Sì, detto proprio dichiarato sì, assolutamente. Giusto per essere chiari. Esatto. Max, un'ultima cosa, che io ti aspetti domani con la Lazio? Sulla Lazio abbiamo delle idee su come ce l'aspettiamo. Molto, molto vicino a una Juve in versione originale, con pochi ritocchi, perché l'ha detto oggi Allegri nella partita scudetto. Insomma, la Lazio, per i risultati che ha fatto negli ultimi mesi, è un avversario più credibile in termini di punti, ovviamente sto dicendo, della Roma. Cioè, la Lazio è una squadra che ha fatto 8 vittorie dietro fino alla Roma, no, e quindi è un avversario che ti può venire a prendere teoricamente. Chiaro che se domani finisce pari o vince la Juve, il campionato è definitivamente chiuso e quindi Allegri non risparmierà tanto. Io penso per esempio che Tevez giocherà e Pirlo abbia buone possibilità di giocare se i muscoli daranno buone sensazioni. Intanto ti aggiungo che Roberto da Torino scrive che la compagna di Oscar cerca casa a Torino da un anno. Notizia vera. Questi sono meravigliosi, quelli che sono amici dell'immobiliarista che ha ricevuto la telefonata dall'amico casa del giocatore Cernobbio, che cerca casa andando all'Inter. Sono un'altra categoria che abita il calciomercato. Guarda, negli ultimi anni Ibrahimovic avrebbe già comprato 7-8 case a Torino. Sì, sta comprando anche una a New York, sta facendo i documenti, è andato in questura, eccetera. Infatti, non l'hanno arrestato. Le evoluzioni sono quelli che lavorano all'ufficio della questura che lascia i passaporti. No? Hai visto con Ibrahimovic che magari vuole andare in vacanza, esatto, però immediatamente paginata perché vuole andare negli Stati Uniti. Grazie, Max. Grazie a voi. Buon pomeriggio. Ciao. Giovanni, facciamo i complimenti a Pino Sacripanti che ieri non ha vinto, ma ha stravinto a proposito di derby, quello con Milano. Coach, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. A proposito dell'incapacità e impossibilità di essere banali, no? Avete vinto, battuto Milano, ma no in volata, li avete asfaltati. Sì, ieri è andata bene, ha fatto una bellissima partita. È chiaro che magari a Milano non interessava tantissimo perché prima in classifica noi eravamo assettati di punti, però insomma vincere con Milano un derby è sempre molto bello e poi di così tanti punti ci dà grande soddisfazione. Come è stato scritto da molti, avevate il gentile giusto. Stefano ha fatto una partita impressionante. Stefano è stato quasi perfetto e speriamo che riesca a dare continuità a questa sua prestazione. Lui, come un po' forse la mia squadra, è un giocatore che sente le partite. Noi viviamo anche un po' di emozioni oltre che di solidità di lavoro e quindi lui è un gentile, ecco, quindi sente benissimo queste cose. Speriamo che le senta sempre. Ha fatto veramente una partita sin dal primo minuto, dominandola sotto l'aspetto proprio sia realizzativo ma anche di gestione. Sì, ieri parlavo con Massimo Oriani più o meno a quest'ora e da questi microfoni e ci stavamo domandando come invece Cantù abbia spento la luce in maniera preoccupante a Venezia. Come è possibile passare da una partita come quella, che è stata una brutta partita, a una partita come quella di ieri con Milano in tre giorni? Ma io intanto dico che forse è stata la nostra fortuna aver spento la luce a Venezia, nel senso che se avessimo vinto un altro discorso, ma perdere di pochi punti forse non ci dava la possibilità di rimetterci un po' a parlare, chiacchierare di quello che è stato un nostro difetto fino a 4-5 mesi fa e poi dopo l'abbiamo risolto, cioè quello di ogni tanto di questo individualismo un po' esasperato che viene molto forte e ci contamina. Non ci succedeva da tanto, ci è successo a Venezia, tutti aspettavamo che tutti, insomma, i giocatori un po' metta World Peace, mettesse un po' a posto le cose e non abbiamo remato tutti insieme. Abbiamo avuto 8 minuti di blackout e forse averci parlato sopra, ragionarci e aver toccato con mano cosa significa perdere in maniera così cosciente ci ha dato poi la possibilità di giocare con un agonismo e una ferocia molto molto forti. Molto. Io non credo che sia una cosa così strana per la squadra come è fatta la mia, ecco, di giocatori molto che vivono le emozioni in maniera molto molto molto forte e che ogni tanto quando prendono queste botte dopo un campionato fatto di coppe e campionato di tantissime partite, sì, forse ci sta e forse ci ha fatto anche un po' bene. Milano è attaccabile, ragionando un po' per la seconda parte della stagione? Beh, io credo che loro nettamente siano i più forti di tutti, dipende un po' dagli altri, perché loro qualche calo ce l'hanno, qualche difettuccio possono anche avercelo, anche se sono ben allenati, sono pronti. È chiaro che poi ieri noi abbiamo vinto molto bene, mancava anche Hackett e Elegar, bisogna anche ammetterlo, che magari era un'altra storia con loro in campo, però più che altro vediamo se le altre sono così forti, nel senso che credo che Sassari abbia tutto il potenziale per poter contrastare Milano, credo che Reggio Emilia abbia grandissimo potenziale, Venezia anche, però deve avere i giocatori che stanno bene, devono essere in fiducia. Noi vediamo, ecco, noi speriamo di entrare nei playoff, poi dopo ne ridiscutiamo. L'obiettivo è quello. Grazie coach, in bocca al lupo e complimenti. Grazie a voi, crepi. Grazie. Grazie a Pino Sacripanti. Tanto, intanto avere uno come il panda, sì, non l'amico, non è male, del panda, no, l'amico del panda. Mi sembra che abbia avuto un impatto non devastante, però si è messo lì, sta facendo il suo. Ha avuto un impatto, ogni tanto perfetto, perde, ogni tanto vince. Sì, però ha avuto un impatto, cioè è entrato non come la superstar bizzosa che dice adesso io sono io e voi non siete un cazzo, come diceva il Marchese del Grillo, ma è entrato in punta di piedi e Sacripanti lo sta gestendo, credo, in una maniera corretta. Ci vediamo domenica? Ci vediamo domenica 17-19, siamo pieni di sorprese, di ospiti e anche di eventi in diretta, perché davvero, abbiamo il Gran Premio alle 17, abbiamo il Napoli alle 18, abbiamo il pre-derby, abbiamo un sacco di roba. Ah bene, perfetto, grazie Giovanni Capuano, Filippo Oreggi in regia, Daniele Buonamici in redazione con Alessandro Marcottulli, ciao a tutti.